24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 30 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 5 marzo. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando questa mattina. Ben trovati. Eccoci, 349-238-6666 per i vostri sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, tanti ce ne avete mandati questa mattina sul tema, soprattutto della chiusura delle scuole, ma non solamente su quello, più in generale sul coronavirus e sugli effetti economici dei quali tratteremo tra un attimo. Tra l'altro è un momento da guardare, lo dico perché sono un inguaribile ottimista, ma anche dal punto di vista dell'occasione che ci viene fornita. Lo so, siamo tutti un po' scombussolati. Però, visto che le lezioni, alcune scuole potranno tenerle in remoto, alcune aziende sempre di più stanno invitando i loro dipendenti a lavorare da casa, quindi con lo smart working, lo fanno alcuni comuni, il comune di Milano per esempio. Allora perché non cogliere questo momento di difficoltà del paese per pensare a una grande rivoluzione digitale? In un paio di anni ce la possiamo fare. Pensate che abbiamo 3 milioni di dipendenti della pubblica amministrazione, 300.000 solo nei ministeri. Se una parte di questi andassero al lavoro 3 volte a settimana negli uffici e le altre 2 giornate le passassero da remoto, ma sai quante emissioni di CO2 in meno avremmo e quanta diminuzione del traffico? In 2 anni ce la possiamo fare, dicono chissà, gli esperti. Chissà che ne pensa tra l'altro Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL. Buongiorno, di questa lettura anche, diciamo, non solo negativa di quello che sta succedendo col coronavirus. Buongiorno Furlan, bentornata. Buongiorno a voi. Che dice? Ci vuole anche una lettura non completamente negativa, bisogna sforzarsi di farlo. È vero, lo smart working usato molto poco nel nostro paese avrà una forte rivalutazione, si sta già utilizzando. Abbiamo però bisogno di sostenere le imprese e i lavoratori anche con consigli, anche con direttive, anche con strumenti formativi che fino ad oggi sono mancati e sono assolutamente necessari, però è sicuramente uno strumento che avremmo dovuto utilizzare, per la verità, molto prima. Ecco, non, ma lei si sente di dire, lo so, ma lei si sente di dire che da questa emergenza questo paese è in grado di trarre una lezione, rimboccarsi le maniche tutti insieme, imparare a lavorare da remoto, imparare a controllare anche il prodotto che i dipendenti, per esempio, della pubblica amministrazione sono in grado di fornire? Perché o si sceglie questa strada e quindi da una drammatica emergenza esce fuori qualcosa di buono, o se no avremo solo gli effetti negativi di questo e sarebbe un'occasione sprecata, non crede? Guardi, io credo che nella storia di un paese, ma anche guardi nella storia personale, individuale di ognuno di noi, molto spesso succede che anche momenti negativi possano mettere le premesse per creare invece condizioni migliorative nel tempo. Quindi non c'è dubbio che se sapremo gestire bene questa emergenza, questo potrà diventare anche per il futuro invece un saper superare problemi che finalmente, che fino adesso non siamo riusciti ad affrontare. Pensa ad esempio alla questione sanitaria. Come saremmo tutti più tranquilli se negli ultimi 15 anni non avessimo avuto verso la sanità tutti i tagli, e sanità e ricerca, tutti i tagli che di finanziaria a finanziaria invece si sono realizzati. Oggi, questo l'abbiamo anche detto ieri al presidente Conte, l'emergenza sanitaria deve trovare, attraverso innanzitutto l'assunzione di medici e infermieri, un sistema sanitario che sia più rafforzato. Ne abbiamo assolutamente bisogno. Abbiamo bisogno di più posti letto in rianimazione, fondamentali anche qua per dare risposte sanitarie positive alle tante persone che si sono ammalate. Quindi questi momenti, è vero, lei ha ragione, servono anche per riflettere su quello che non si è fatto, sugli errori e ripararli. Ecco, questo credo che sia assolutamente un insegnamento che possiamo trarre da questa situazione. Furlan, c'è una questione, la questione della quale stanno discutendo tutti in questo momento è la chiusura delle scuole fino al 15 marzo e poi speriamo che il 15 marzo riaprano, lo vedremo da come andranno le cose dal lato dei contagi. Ora, voi siete un sindacato che è fortemente rappresentativo anche del mondo degli insegnanti e del personale non docente, non sono solamente gli insegnanti. Le sembra pensabile, se lo stop dovesse proseguire, che l'anno scolastico finisca più tardi? Guardi, non lo so, l'affronteremo quando è il momento. Io credo che, seppur doloroso, questo sia un provvedimento che evidentemente era necessario. La prima questione che dobbiamo affrontare è... Mi scusi Furlan, però mi perdoni, la domanda non gliela faccio a caso, perché qualcuno dice ogni tanto, su questo tema c'è sempre una certa resistenza da parte dei sindacati e dei lavoratori, no, sul prolungamento dell'anno scolastico, quindi la domanda siamo non è casuale. Siamo in un momento eccezionale, non siamo in un momento normale, quindi... Io credo che le cose vadano affrontate di volta in volta, sapendo di essere nel momento eccezionale. Ecco, e quindi tenendo conto del tenendo conto del fatto che i nostri studenti hanno già da Roma in giù gravi difficoltà ad essere messi in confronto con gli studenti delle scuole di altri paesi. Dunque far perdere un mese di scuola è una cosa che deve preoccupare tutti, insegnanti, certo, e genitori. Non c'è ombra di dubbio, è per questo che dicevo che queste discussioni non si possono fare allo stesso modo quando si è in un momento emergenziale come questo o quando invece il paese vive la sua normalità. Certo che è doloroso chiudere le scuole, non c'è ombra di dubbio, togliamo ai nostri ragazzi una possibilità straordinaria per la loro formazione. E però oggi il tema prioritario è quello di arginare al massimo il contagio. Quindi, se è necessario, almeno per un periodo, chiudere le scuole, bisogna affrontare questo tema. Allora, si possono fare lezioni online attraverso gli strumenti, l'abbiamo visto prima anche su diciamo materie non solo la scuola ma un po' tutto il mondo produttivo. Ci sono strumenti per poter affrontare tutto questo e la salute prima di tutto, per cui se è necessario un provvedimento temporaneo di sospensione delle attività didattiche dentro la scuola, quantomeno bisogna affrontarlo in questo modo. E se è necessario prolungare l'anno scolastico, si farà. Io sarei assolutamente disponibile. Se la domanda è cosa ne pensa lei, spero che non sia necessario, sarà ovviamente complicato, ma affronteremo anche questo se sarà necessario. Non stiamo vivendo un momento di normalità, lo ripeto, stiamo vivendo un momento di eccezionalità e tutti assieme, facendo tutti i nostri sacrifici, dobbiamo affrontarlo. Sì, cercando. Sì, sono d'accordo con lei, cercando anche di guardare a quello che è il bene collettivo e non il singolo. La singola esigenza personale, perché alcuni dicono ma se si prolunga l'anno scolastico poi si ha una ripercussione sul sistema turistico e vabbè per però, 3 settimane si fanno studiare i ragazzi esattamente un pochino di più. Senta Furlan, si faccia portare sul tema generale perché la questione c'è una questione sanitaria che è evidente, che stiamo raccontando, c'è la questione delle scuole e c'è una questione economica che è essenziale. Insomma, in questo momento il paese, un pezzo del paese importante è fermo oggettivamente, no? Il turismo ieri ha parlato di perdite intorno ai 7 miliardi di euro, ma il turismo è solamente un esempio di quello che può succedere nelle prossime settimane. Quali sono le vostre proposte per il governo? Ma noi abbiamo detto al governo che subito dopo l'emergenza sanitaria la priorità è l'emergenza economica. perché già oggi ci sono segnali chiari, terribili, di rallentamento, di crisi di impresa, e questo non riguarda soltanto la cosiddetta zona rossa e la zona gialla, riguarderà tutto il paese, in tutti i settori, non c'è un settore che non è colpito da questa situazione. Il turismo è quello più eclatante, ecco, ricordiamoci che parliamo di un settore che produce circa il 15% del nostro PIL da solo, come ovviamente collegato al turismo anche il commercio, ma le imprese industriali, mancano le materie prime, manca la componentistica, e cioè tutto quello che fa produrre le nostre imprese. Una crisi dei trasporti, se vi capita di andare in treno, di andare in aereo, troverete un vuoto incredibile intorno a voi. È facile in questo momento, in alcune situazioni, rispettare il metro di distanza. Gli aerei sono semivuoti, i treni anche. Quindi è evidente che tutto questo comporterà una crisi economico-produttiva in cui nessun settore è escluso. Questo cosa significa? Che noi insieme, e innanzitutto ci si deve occupare della salute dei cittadini, ma anche della salute della nostra economia. Non possiamo tornare in recessione. L'Italia ha vissuto una crisi economica produttiva recente e terribile. Quindi bisogna mettere in campo risorse ed azioni. Io credo che il governo sia determinato rispetto a questo. Abbiamo trovato un ascolto assolutamente positivo su come sostenere il reddito di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici coinvolte nella crisi o nelle possibili crisi. Quindi la cassa in deroga deve essere prevista su tutto il territorio nazionale in conseguenza della crisi che attraversa i vari settori, ma anche un sostegno importante attraverso gli investimenti pubblici alle imprese e ai territori. Ecco, oggi è proprio il momento di sbloccare quei 130 miliardi bloccati lì, fermi lì da anni, in modo colpevole, di infrastrutture che possiamo invece mettere in campo. E poi ovviamente il rapporto con l'Europa. Bene, si potrà allargare un po' le maglie del nostro deficit, sono circa 4 miliardi, permetteranno di affrontare con il prossimo decreto, già nei prossimi giorni, il tema del sostegno al reddito, in parte il tema del sostegno all'economia, ma è insufficiente tutto questo. Allora l'Europa, questa nostra Europa dei popoli, del lavoro e dei cittadini, dovrà essere chiamata a fare la sua parte, e in questo momento non servono timidezze da parte del nostro governo, serve grande determinazione. Grazie Anna Maria. Grazie, Furlan. La segretaria generale. Grazie della CISL, voi, per essere stata con noi. Una pausa e poi parliamo col ministro della difesa Guerini. Mattino. Buongiorno al ministro della difesa Lorenzo Guerini, eccoci. Buongiorno a voi. Maria, prego. Buongiorno ministro. Allora, c'è un clima molto agitato, mettiamolo così. La percezione che forse questa emergenza del Covid-19 durerà alcune settimane nella migliore delle ipotesi. Lei ha passato molto tempo nella zona rossa, tra l'altro è di Lodi, quindi conosce bene la situazione. Sappiamo che si trova all'estero, quindi non ha preso parte agli incontri di ieri a Roma, ma per quello che le consta, com'è la situazione non soltanto nella zona rossa, a Lodi, a Cologno, ma in generale, e per quello che può dirci, quanti ospedali militari pensa di poter mettere a disposizione dei malati? Sì, la situazione è una situazione che richiede grande attenzione e a fare richiesta anche l'assunzione di misure molto drastiche che abbiamo assunto con grande responsabilità, mettendo al primo posto l'esigenza del del contenimento del virus, che è l'obiettivo al quale dobbiamo lavorare. Abbiamo preso misure molto pesanti, soprattutto per quanto riguarda le zone rosse. Io ne conosco in particolare una, quella di Codogno, visto che risiedo nella provincia di Lodi. Ho avuto modo di confrontarmi sia con i sindaci che con la popolazione attraverso i canali di comunicazione telefonica o la messaggistica o i social, e so quanto pesano le misure che abbiamo adottato per i cittadini, perché limitano molto la loro possibilità di relazioni sociali, sia per il sistema delle imprese di quei territori, ma più complessivamente la situazione del virus sta pesando in tante realtà e in alcune nostre regioni in maniera significativa, perché sicuramente limita molte delle attività che vengono svolte. Però ripeto, il primo obiettivo è quello del contenimento del virus. Le misure sono drastiche, potranno essere misurate nella loro efficacia tra qualche giorno, perché oramai la prima ordinanza è di circa 10 giorni fa, quindi alla fine di questa settimana io penso che potremo avere le prime valutazioni in ordine all'efficacia delle misure che abbiamo predisposto, che sono state assunte sulla base delle valutazioni di tutta la comunità scientifica, sono state validate e approvate anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sappiamo che sono misure pesanti, ma sappiamo che sono misure necessarie, e devo dire che la popolazione sta capendo l'importanza di queste misure, anche quelli sottoposti alle misure più pesanti. Dal punto di vista operativo, che cosa potete fare, che cosa potete mettere in campo come difesa dal punto di vista sia delle strutture sia del personale? Allora, innanzitutto abbiamo affrontato il primo impegno, che era quello nelle prime settimane di manifestazione del Covid-19, non in Italia ma al di fuori dei nostri confini, di andare a riportare a casa i nostri connazionali che erano bloccati in Cina o in altre realtà. Abbiamo effettuato già 5 voli, ne effettueremo probabilmente degli altri per riportare a casa persone che sono bloccate in alcuni paesi, che devono essere riportate a casa, e stiamo lavorando sui canali diplomatici attraverso il Ministero degli Esteri, che ringrazio per l'impegno che sta realizzando. Si sta lavorando per poter affrontare queste situazioni. La difesa mette a disposizione le proprie strutture, che significa i propri aerei, soprattutto l'aereo che è attrezzato per il biocontenimento, i propri equipaggi e il proprio personale medico. L'abbiamo già fatto, continueremo a farlo secondo le esigenze e le possibilità che ci saranno offerte. Dopodiché abbiamo fino adesso impiegato circa 700 unità di personale, sia personale medico che personale militare, per una serie di funzioni che sono state svolte, così come abbiamo impegnato alcune strutture, quella della Cecchignola per la sorveglianza attiva, quella di Baggio di Milano da poco tempo, una a Torino che è appena stata attivata, e poi abbiamo l'ospedale del Ceglio, che è il nostro ospedale militare, che svolge ulteriori funzioni. Stiamo inviando in Lombardia, sulla base della richiesta che ci è stata rivolta dalla Regione, in un quadro di collaborazione che ci deve essere tra il livello nazionale e i livelli regionali, abbiamo inviato una prima aliquota di medici e di infermieri, 14 infermieri e 10 medici, ne invieremo altri 10 medici e altri infermieri per cercare di rispondere alle esigenze in questa fase emergenziale che la Regione Lombardia ha posto la nostra attenzione. In più abbiamo, come normale che sia in situazioni di questo tipo, abbiamo in campo una pianificazione che può mettere a disposizione circa 2200 stanze, circa 6600 posti letto distribuiti su tutto il territorio nazionale per i cittadini che debbono eventualmente sottoporsi al periodo di sorveglianza. È un potenziale che è a disposizione, non è un potenziale che necessariamente dovrà essere utilizzato. Senta Ministro, lei ha fornito un quadro molto, molto dettagliato e preciso. Tra l'altro ha parlato pochissimo in questi giorni, quindi lei sembra in grado di sapere dove mettere le mani. Ieri però abbiamo assistito, e non è la prima volta, a un balletto di Stop and Go. Prima pare appunto che da Palazzo Chigi fosse partita la notizia che le scuole di tutta Italia sarebbero state chiuse addirittura dalla mattina, insomma da questa settimana. Poi c'è stato un dietro front. Allora, so che lei non era in Italia, l'abbiamo detto prima, si trova in Croazia per impegni del suo dicastero. Ma non si era detto che veniva centralizzata tutta la comunicazione, che quindi non nessuno prendeva un'indicazione né le regioni né gli altri ministeri, che ci sarebbe stato un coordinamento? Io parlo molto poco e come ministro della difesa parlo ancora meno, perché credo che il ministro della difesa, così come altri ministri che hanno la responsabilità della guida di alcuni dicasteri particolari, devono essere molto sobri nell'attività di comunicazione che svolgono. Ci ho detto, io non c'ero perché appunto ero all'estero, è evidente che passaggi e decisioni di questo tipo sono passaggi e decisioni molto complesse. Io ricordo che quando abbiamo assunto le decisioni che riguardavano la zona rossa abbiamo tenuto un consiglio dei ministri che è durato alcune ore, perché c'erano da prendere delle decisioni importanti, molto drastiche, anche sul piano della limitazione della libertà di movimento delle persone, e quindi necessitavano che ci fosse davvero un confronto. Poi sulle fughe di notizie, sugli stop and go non intervengo, siamo forse troppo tutti abituati a stare, come dire, 24 ore al giorno connessi con l'esigenza di comunicare, forse insomma anche da questo punto di vista la virtù della prudenza è una virtù che dovrebbe essere sempre esercitata. Però guardi, io voglio però testimoniarle che c'è un impegno veramente molto, molto forte, molto responsabile da parte di tutto il governo, da parte di tutte le istituzioni con le quali si sta collaborando per trovare le soluzioni migliori, per mettere in campo le politiche migliori per il contenimento di questa emergenza, con grande abnegazione che ho trovato in tanti interlocutori, dalla Protezione Civile, ma anche dalle regioni, dalle strutture territoriali. C'è un lavoro comune, insomma, credo che sia l'esigenza di lavorare appunto insieme, lavorare il più possibile bene, senza nessun tipo di gelosia, senza voler scavalcare l'uno con gli altri, per portare a casa i risultati che dobbiamo portare a casa, che in questo momento sono primariamente la tutela della salute dei cittadini. Ministro, proprio a proposito di quello che ci accennava, com'è il clima nel governo, com'è nella maggioranza e com'è il clima con l'opposizione in questo momento? Ma guardi, devo dire che il clima del governo è un clima fortemente coeso nella volontà di affrontare questa emergenza, fortemente consapevole delle misure che abbiamo adottato e che stiamo adottando. Non sono state prese decisioni a cuore leggero, quindi io vedo molta responsabilità e molta consapevolezza e anche molta determinazione per ottenere i risultati che speriamo. Anche col Parlamento io trovo ho trovato un'assoluta disponibilità a garantire il canale di rapidità delle decisioni che dobbiamo assumere, che coinvolgono il Parlamento, e anche con l'opposizione, al netto di qualche polemica che fisiologica anche in situazioni di questo tipo, però sulla sostanza mi pare che ci sia la consapevolezza che c'è bisogno da parte di tutti in questo momento di deporre un po' le armi della normale dialettica politica e invece di lavorare per affrontare l'emergenza. Credo che ce lo chiedano gli italiani, e penso che chi fa politica deve sempre domandarsi quali sono i sentimenti profondi che attraversano il popolo che si intende rappresentare, e credo che in questo momento il sentimento sia quello di una preoccupazione normale, che non vuole essere panico, perché non ci sono le ragioni perché questa giusta preoccupazione diventi panico, ma che diventi invece responsabilità nel saper assumere e nel portare avanti le decisioni che è necessario assumere e portare avanti. Senta Ministro, con i suoi colleghi ministri di altri paesi, il suo collega soprattutto francese che ieri appunto in Francia si sono dovuti scusare con noi italiani per quella poco elegante spot che prendeva in giro il pizzaiolo col coronavirus italiano. Insomma, con i suoi colleghi ministri, che cosa vi siete detti? Perché diciamo, una idea che ci siamo fatti è che in Francia e in Germania per settimane hanno tenuto anche molto bassa la comunicazione. Che sensazione ha, avendo appunto avuto questi incontri con i suoi colleghi degli altri paesi europei? Ma io devo dire che ho trovato attenzione e anche solidarietà per la situazione che stiamo vivendo in Italia. Devo dire attenzione anche perché alle politiche che stiamo adottando, alle scelte che stiamo facendo, perché tutti sono consapevoli che, come dire, il virus non conosce le frontiere e che quindi situazioni di questo tipo possono determinarsi in altri paesi, e anzi in alcuni paesi inizia ad esserci appunto analoga preoccupazione, perché i casi iniziano a diventare significativi, statisticamente significativi. C'è anche la consapevolezza appunto che probabilmente dobbiamo fronteggiare un problema comune. Dal punto di vista della comunicazione, io penso che sia nostro dovere, come dire, essere trasparenti rispetto alle situazioni. Io credo che noi abbiamo fatto bene a comunicare ai cittadini qual era la situazione, poi forse ognuno può ragionare sui toni che sono stati usati, sulle responsabilità anche dei toni, però credo che sia giusto rappresentare ai cittadini com'è la situazione, ogni giorno fare il punto della situazione, spiegare le misure che si assumono, spiegare qual è la portata del problema, perché se c'è comunicazione corretta c'è anche consapevolezza, e se c'è consapevolezza da parte dei cittadini è un primo passo per contenere il virus, che passa anche attraverso le abitudini quotidiane di ciascuno di noi. E se ognuno di noi resta ignaro rispetto a ciò che può accadere anche attraverso le proprie abitudini quotidiane, io credo che non si faccia un servizio alla salute collettiva. Dopodiché si può non solo nascondere le cose, ma prima o poi le cose emergono. Grazie a Lorenzo Guerini, ministro della difesa, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie. Ed è puntata densa oggi, perché con noi anche Marco Minniti del Partito Democratico, col quale cambiamo argomento e andiamo sul confine turco-greco. Buongiorno Minniti, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Maria, buongiorno, prego. Buongiorno Marco Minniti. La prima domanda che le faccio è: mi ha colpito che a differenza del 2015 stavolta la Germania abbia preso una posizione molto diversa rispetto ai profughi siriani. La tedesca presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è andata al confine tra Grecia e Turchia ribadendo che la Grecia è il confine d'Europa. Mi viene da chiederle e da pensare: come mai nessuno dalla Commissione europea venne in Italia a dire che l'Italia, il confine italiano, era la linea europea invalicabile, quando per anni abbiamo avuto tanti, sì, tanti profughi in arrivo da zone di guerra, da profughi economici? Però non mi ricordo che nessuno venne con la stessa solennità che ha avuto von der Leyen due giorni fa. Prima di farla rispondere, Minniti, preciso Maria che è stata un po' più brutale von der Leyen, perché ha detto la Grecia è lo scudo d'Europa, insomma, quindi ancor più forte la dichiarazione. Minniti, prego. Sì, no, perché l'Europa per lungo tempo pensato, si potrebbe dire anche si era illusa, e che la vicenda fosse soltanto quella del rapporto con l'Est. Questione naturalmente molto importante per l'Europa, soprattutto molto importante per l'Europa centrale. C'è stato all'inizio, diciamo, degli anni 90, poi proseguito anche per la fine degli anni 90 e inizio del terzo millennio, c'è stata una grande, gigantesca operazione che pensava, dopo il crollo del muro di Berlino, che il punto fondamentale dell'Europa fosse quello di guardare ad est. C'era l'idea di poter inglobare quelli che erano stati i nemici del passato, operazione tra virgolette molto importante, in gran parte anche riuscita, basta soltanto pensare alla Polonia, all'Ungheria, alla Bulgaria, naturalmente con tutti i problemi che poi sono arrivati all'Europa, una parte fondamentale dei problemi dell'Europa di oggi dipende anche da quell'allargamento ad est. E tuttavia si era pensato che il problema fosse quello, che il Mediterraneo, tra virgolette, fosse uno scenario secondario dell'Europa e quindi un problema del rapporto dell'Italia con il Mediterraneo, che l'Africa fosse un problema principalmente dell'Italia e non dell'Europa. I fatti si sono drammaticamente incaricati di rendere evidente che l'Africa non è un problema dell'Italia, è un problema gigantesco dell'Europa, anzi aggiungo io che gran parte del futuro dell'Europa si giocherà nel rapporto con l'Africa, anzi diciamo una cosa un pochino più impegnativa, l'Africa nei prossimi 20 anni sarà lo specchio dell'Europa. E se l'Africa starà bene, l'Europa starà bene. E se l'Africa starà male, non ci sono muri che tengono, non ci sono scudi che tengono, l'Europa starà male. Però il punto più drammatico è che questa gigantesca contraddizione si è rivoltata contro l'Europa. Vede, noi stiamo parlando di una crisi umanitaria drammatica, molto impegnativa, e tuttavia la partita vera non si gioca nel rapporto con l'Europa, non si gioca a Bruxelles. La partita vera si gioca stamattina a Mosca, nell'incontro tra Putin e Erdogan. E questo la dice lunga su quello che è avvenuto, e cioè che l'Europa è al centro di una pressione. Erdogan ha utilizzato i profughi come arma inaccettabile di pressione verso l'Europa, e la partita strategica non è nelle mani dell'Europa, è nelle mani di due altri personaggi. Si gioca una partita tra virgolette molto complessa e molto impegnativa, su cui l'Europa non può limitarsi soltanto alla difesa dei confini, Miniti... non può soltanto limitarsi a ribadire la solidarietà verso la Grecia, che naturalmente è la solidarietà di tutti e che non può essere nemmeno per un attimo cancellata. Però un'altra partita, che al momento mi pare non ci sia. Dato che abbiamo tra l'altro poco tempo, Minniti, perché abbiamo avuto insomma poco fa il ministro della difesa. Il momento è delicato. Coronavirus, perché il momento è delicato. Abbiamo un'ultima domanda, perché a me sembra che questo nodo lei non l'abbia sciolto. Da ministro dell'interno si è occupato molto della questione dei migranti. In questo caso noi stiamo parlando di profughi, sostanzialmente, perché parliamo di siriani o al limite afghani che insomma stanno fuggendo da situazioni di guerra o di semiguerra, no? Sono perfettamente allora quello che dico è quello che diceva Maria Latella, è che qua vediamo proprio un cambio di faccia da parte dell'Europa su questo fronte, che è nettissimo, cioè non è questione di Africa, qua è questione di profughi. Ma è esattamente questo. Ma infatti io penso che la parola scudo non sia sufficiente. Io penso in maniera evidente, per esempio, che ci sia un problema gigantesco che riguarda i corridoi umanitari, a maggior ragione nell'epoca del coronavirus. Nel momento in cui ci sono profughi, perché quelli che stanno scappando dalla Siria sono profughi, e c'è bisogno di avere corridoi umanitari che siano anche dal punto di vista sanitario controllati, e c'è un problema gigantesco che riguarda i bambini. Io mi aspetto che l'Europa si muova per aprire corridoi umanitari per i profughi, soprattutto partendo dai bambini. Però il problema, vede, è esattamente questo. Noi pensiamo che il punto sia quello di stare a inseguire l'ultima emergenza. Il problema è che bisogna governare le emergenze. Il problema è che l'Europa ha pensato di aver risolto il problema con la Siria nel momento in cui ha costruito un patto con la Turchia, che come si è visto era un patto fragile, probabilmente a svantaggio dell'Europa, e che ha dato alla Turchia un'arma straordinaria di pressione verso l'Europa. E che sia un'arma straordinaria di pressione lo dimostra quello che sta avvenendo in questi giorni. Aggiungo che se l'Europa non vuole avere un ruolo secondario, deve porsi il problema di quello che è avvenuto in Siria come di quello che sta avvenendo in Libia. Noi abbiamo avuto adesso il più gigantesco spostamento geopolitico degli ultimi 100 anni nel Mediterraneo. Nel Mediterraneo orientale ne stiamo parlando in questo momento. Nel Mediterraneo centrale abbiamo la Libia. Prima erano altri i protagonisti. Oggi non si può non guardare al futuro con preoccupazione, perché abbiamo a che fare con due giganteschi protagonisti, che sono Russia e Turchia. Certo. In Siria come in Libia. Aggiungo, sì, si pone un problema drammatico per le grandi democrazie. e cioè il punto che si pone di fronte alle emergenze umanitarie, così come di fronte al governo di processi drammatici sul territorio, ce la fanno le grandi democrazie? O sono soltanto i sistemi forti a poter dare una risposta? Io continuo a pensare che le grandi democrazie devono cimentarsi con queste questioni. È un tema enorme, Minniti, e se avrà voglia la richiameremo con un po' più di tempo, con tempo un po' quando più disteso voi, per parlare. Io sono a vostra disposizione. Grazie, buona giornata. Grazie Marco Minniti. Grazie Marco Minniti. Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. A domani. Con tutti gli altri alle 6:30. Ciao.